Puoi avere macchine, soldi, gioielli e sentirti vuoto uguale. Puoi crescere fuori ma dentro restare sempre uguale. Puoi metterti una maschera e fingere che per te i problemi non esistano, però sai bene che non ti sentirai appagato dentro. Inoltre sai che puoi mentire al mondo intero ma non a te stesso, se continui a chiederti da dove venga quel senso di rimorso che provi. Fra basta che ti guardi intorno, c'è la gente che muore intorno a te. Nel mondo ogni giorno muore gente senza perché, vittime di ciò che gli uomini chiamano destino. In questi casi dov'è l'ipotetico intervento divino? Scoppiano guerre per fottuti motivi futili, concetti stupidi, stronzate inutili. Il motivo per cui gli uomini ricorrono alle armi è che non sono più in grado di dialogare. È disarmante, di astutità ne ho viste tante. In ogni istante ho pregato perché il mondo si riassestasse. Invece sento di confini, conflitti intercontinentali, innocenti uccisi per gli interessi dei parlamentari. Povertà, gente che soffre la fame, che soffre l'avidità, gente che vive nell'etame. La società non essere in grado di bilanciare l'uguaglianza nel mondo rimane solo un concetto formale. Torno, questa è la vita vera, quella che non perdona e sei costretta ad affrontare. Ogni giorno, ogni sera, guardi telegiornali, ti turbano parecchio, mantenere l'abile mani. Invece è ora di agire, perché il mondo siamo noi. L'indifferenza non uccide il mondo, uccide noi stessi. Come puoi pensare che quello che vedi non ti riguardi solo perché non capita a te? Prova a guardarti. Prova a guardarti intorno e dimmi se il contesto in cui viviamo ti piace così com'è. Fra stupratori, pedofili, assassini, ingannatori, opportunisti, ladri, attentatori, terroristi. Io tollero tutto tranne i bastardi egoisti che ci incantano coi loro discorsi da perbenisti. Sono sempre più tristi le condizioni del sistema. Puoi restare a guardare ma ne vale la pena. E vedo ancora scontri condizionati da fittizie giustificazioni politico-religiose. E vedo ancora che si giudica una persona dall'etnia, dalla lingua, dalle usanze e dal colore. E vedo ancora abusi e ingiustizie e la gente non se ne cura perché non sa come evitarlo. E ciò che più mi lascia attonito è la consapevolezza che volendo il mondo potremmo cambiarlo. Guardati intorno, questa è la vita vera, quella che non perdona e sei costretta ad affrontare. Ogni giorno, ogni sera, guardi telegiornali, ti turbano parecchio ma te ne lavi le mani. Invece è ora di agire perché il mondo siamo noi. L'indifferenza non uccide il mondo, uccide noi stessi. Come puoi pensare che quello che vedi non ti riguarda? Guardi solo perché non capita a te. Prova a guardarti intorno. Questa è la vita vera, quella che non perdona e sei costretta ad affrontare. Ogni giorno, ogni sera, guardi telegiornali, ti turbano parecchio ma te ne lavi le mani. Invece è ora di agire perché il mondo siamo noi. L'indifferenza non uccide il mondo, uccide noi stessi. Come puoi pensare che quello che vedi non ti riguardi solo perché non capita a te? Prova a guardarti intorno.